Letture di Radio 24. Il ventennio fascista è fortunatamente un lontano ricordo, ma alcune sue conseguenze sono ancora vive. Come la tassa per il finanziamento della guerra d'Abissinia nel 1935, che anche oggi paghiamo a colpi di un centesimo di euro per ogni litro di carburante che mettiamo nel serbatoio. Il quotidiano Il Giornale, tra il serio e il faceto, mette le mani avanti sulle possibili nuove spese di finanziamento dell'attuale missione ONU sui cieli di Libia. A chi toccherà saldare le spese extra delle 8 basi? La portaerei con i velivoli a decollo verticale, i Tornado, l'Intelligence. Ovviamente ai contribuenti. E del resto è del tutto normale che un popolo si faccia carico del bilancio della propria politica estera, inclusa quella fatta a suon di missili. La guerra in Afghanistan, ad esempio, è costata all'Italia oltre 50 milioni di euro al mese negli ultimi anni e naturalmente il Parlamento ha dovuto approvare la relativa copertura. Anche stavolta dobbiamo prepararci a mettere mano al portafogli? Ci resta una carta: appellarci al ministro Tremonti perché si metta una mano sulla coscienza e tenga presente un fatto di cui le associazioni dei consumatori si sono lamentate a più riprese. Si può tranquillamente dire che i soldi per questa guerra il cittadino contribuente li abbia già ampiamente sborsati. Grazie, o meglio per colpa, a uno di quei trucchetti che ci rendono di anno in anno il fisco italiano sempre più antipatico. Dal 1935 tutti gli automobilisti che percorrono le strade d'Italia versano all'erario una somma piccola ma costante, una vera e propria tassa destinata alla guerra d'Abissinia, l'attuale Etiopia, inserita all'epoca tra le accise sulla benzina. Si tratta di 1,9 lire ogni litro versato nei nostri avidi serbatoi. Chi non è pratico di numeri penserà che si tratta di piccola cosa, di una bazzecola, soprattutto se convertita dalla liretta dell'epoca al ben più pesante euro attuale. A fare la conversione viene fuori uno 0, apparentemente trascurabile. Pulviscolo di moneta, nemmeno centesimi. Peccato che gli automobilisti italiani siano tanti, così come i litri di benzina consumati e gli anni trascorsi versando l'assurdo balzello. Ben 76. Dunque, pallottoliere alla mano, bisogna moltiplicare 1,9 lire per 350 litri l'anno, che è la stima del consumo medio annuo dell'automobilista italiano. La cifra ottenuta, 665 lire, va moltiplicata per il numero dei veicoli che affollano le nostre strade, all'incirca 40 milioni, e siamo a 26,6 miliardi di lire all'anno, che pure, se tradotti in euro, sono tutt'altro che bazzecole, 13,5 milioni di euro all'anno, un corposo soldino che gli italiani infilano ogni anno nel salvadanaio del fisco. Caro Ministro, visto che siamo stati previdenti e abbiamo messo via tanti denari per la vecchia e da tempo terminata guerra d'Africa, ora sia comprensivo e non ci infligga tasse per la guerra nuova. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «I costi di questo conflitto? Li paghiamo già dal 1935», a firma di Giuseppe Marino e pubblicato dal Giornale del 21 marzo. Letture di Radio 24. Una donna compra una casa che si affaccia sul campo di calcio di una parrocchia della Padova Bene. Prima iniziano le lamentele per gli schiamazzi, poi la situazione degenera e il parroco incomincia a ricevere denunce dalla donna. Alla fine saranno 35, ma il tribunale ora decide che si tratta di stalking a danno del sacerdote e dell'intera comunità. Era diventata il terrore di un'intera parrocchia. 4.000 fedeli e soprattutto un parroco, Don Francesco Tondello, da anni in balia di quella donna, all'apparenza gentile, colta e facoltosa, ma capace di trasformarsi in un'arma da guerra. Si scagliava contro tutto ciò che riguardava l'attività della mia chiesa, i bambini che giocavano a pallone, i volontari che facevano le riunioni, le nostre feste. Eravamo la sua ossessione e lei la nostra croce, racconta il Don. Ora che l'hanno fermata, ora che un giudice ha intimato alla signora di stare a distanza dalla parrocchia e dalle sue attività, Don Francesco, 45 anni e una voce mite, quasi non ci crede. Finisce un incubo durato 7 anni. Un incubo che per il sacerdote è riassumibile in cifre. Mi ha denunciato 35 volte, tutte archiviate. La polizia è venuta ad identificarmi in canonica 250 volte, per non parlare poi delle piazzate, delle urla, delle minacce. Ha tante facce lo stalking, ma forse è la prima volta, e farà giurisprudenza, che una persona venga riconosciuta colpevole nei confronti non di un altro individuo, ma di un'intera comunità, una parrocchia. È una storia metropolitana, lievitata nel cuore di Padova. 46 anni, laureata, mai sposata, una figlia di 20 che vive altrove. Una donna, afferma il parroco, dalla vita sociale intensa, commercialista e consulente per aziende nel settore dei contributi europei. Personalità complessa, imprevedibile. In certi momenti, prosegue il sacerdote, una persona amabile, corretta, è arrivata perfino ad offrirmi il caffè. Il problema sono gli altri momenti. La signora prese casa nel 2004 vicino alla parrocchia. Le sue finestre, come quelle di altre 13 famiglie, si affacciano sul campetto dell'oratorio, dove i bambini al pomeriggio giocano a palla. Le sue lamentele sono iniziate da qui, dai presunti schiamazzi dei ragazzi, poi si sono estese al resto delle attività della parrocchia. Mi ha anche accusato di averle inviato dei proiettili in busta. Guerra totale. Una volta denunciò pure il comune per presunte violazioni nell'edificazione di alcune strutture della parrocchia. Spaventati ed esasperati, i parrocchiani hanno deciso di fare massa comune. Si è costituito un comitato di 40 persone, tutti professionisti, gente stimata, con l'obiettivo di tutelare il buon nome della parrocchia e dei loro figli. Il rischio, infatti, era che le martellanti denunce della signora, anche se mai prese seriamente in considerazione dalla magistratura, potessero ledere l'immagine della comunità. Lenta, ma inesorabile, la giustizia alla fine è arrivata. I carabinieri hanno interrogato decine di parrocchiani, hanno messo a confronto le versioni e il cappio dello stalking si è stretto attorno alla signora. Niente arresto per ora. In compenso, una diffida grande come una casa ad avvicinarsi alla chiesa e al suo parroco. Dovrà andare a messa da un'altra parte e tanti auguri al sacerdote che se la ritroverà di fronte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Ha perseguitato il parroco, il giudice vada a messa altrove», a firma di Francesco Alberti e pubblicato dal Corriere della Sera del 21 marzo. José Zapatero rappresenta senza dubbio l'ultimo e più forte tentativo di rinnovamento della socialdemocrazia europea. In sella dal 2004, Zapatero si è occupato molto di riforme sociali, dalle nozze gay alla fecondazione artificiale, ma, complice la crisi economica dell'ultimo biennio, lascia ora la Spagna con la disoccupazione più alta d'Europa, gli stipendi congelati e le pensioni tagliate. Zapatero, addio. Il premier socialista, 50 anni, al potere dal 2004, getta la spugna. Non si ripresenterà come candidato della Rosa alle politiche del marzo 2012. L'annuncio, ancora non ufficiale, ma dato per certo, verrà dato il prossimo 2 aprile alla riunione del comitato centrale del suo partito, di cui Zapatero è segretario generale dal 2000. Da mesi Zapatero teneva col fiato sospeso la Spagna, rifiutandosi di dire se si sarebbe ripresentato per un terzo mandato da premier. L'eredità economica che Zapatero lascia è terrificante. La crisi sta terremotando il paese e la disoccupazione è al 20,3%, la più alta dell'Unione Europea. Non a caso i sondaggi vedono in testa il centrodestra del Partito Popolare, PP, con 16,5 incolmabili punti sulla rosa. E i baroni, i capi regionali del PSOE, continuano a ripetere a Zapatero che deve andarsene prima del 22 maggio. Zapatero, ex docente di diritto costituzionale, sposato con la cantante d'opera Sonsoles e padre di 2 figli, sta ritardando la notizia dell'addio in vista del vertice europeo del 24 e 25 maggio. Da tempo però ha lasciato la piazza al suo vice premier e ministro degli interni, Gonzalo Rubalcaba, il suo probabile successore. Ormai il leader che ha vinto a sorpresa nel 2004, grazie all'attentato di Al-Qaeda alle stazioni ferroviarie di Madrid, è l'ombra di se stesso. Di metamorfosi Zapatero ne ha fatte parecchie. Prima era antinucleare, adesso è favorevole all'allungamento della vita delle centrali atomiche fino a 60 anni. Un tempo difendeva lo Stato sociale, ora congela i salari, taglia le pensioni e alza l'età di pensionamento da 65 a 67 anni. Nel 2007 gongolava per aver superato il reddito pro capite dell'Italia. Adesso la Spagna è sotto attacco dei mercati. Zapatero ha fallito anche come leader della nuova socialdemocrazia, seguendo la teoria del repubblicanesimo di Petit, che punta molto sui diritti civili. Sarà dunque ricordato per le sue leggi sulle nozze e le adozioni gay, il divorzio lampo, la fecondazione artificiale, l'aborto libero nei primi 4 mesi, la battaglia per la laicità dello Stato e la guerra contro la Chiesa. Ma erano riforme a costo zero e gli spagnoli, quando votano, pensano al portafoglio, non ai gay e al lavoro che non c'è. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Spagna, Zapatero addio, a firma di Gian Antonio Orighi e pubblicato dalla Stampa del 21 marzo.